anno di nascita 1534, età 15 anni, di bell'aspetto, indole mite e taciturna, illibata, in buono stato di salute. Segni particolari? Nessuno! Il tutto per una dote di partenza di 200 ducati! Chi la vuole per una dote inferiore, signori? 150, 100, forza, signori, l'offerta più bassa è quella che vince. 85 per il signore là in fondo. 70, 70, signori, chi la sposa per meno? 71, 72, 73, sposata! Ricordiamo ai signori padri offerenti che il pagamento della dote è immediato e va effettuato al marito al termine della cerimonia. Si accettano contanti e assegni circolari. No, assegni bancari. Lotto numero 2. Figlia femmina, non più giovane, età 26 anni, in buono stato di conservazione, indole remissiva e accondiscendente, moralmente virtuosa, ottime abilità nella cura della casa, segni particolari, lieve claudicazione all'arto inferiore destro, secondo tentativo su base destra rialzata pari a 600 ducati. Chi la vuole, signori? 600 ducati per il signore là in fondo, 550, forza signori, ribassiamo la dote, 500, nessuno vuole di meno per questa giovane zoppa illibata, no? 500, aggiudicata al signore in blu, sposata! Informiamo i signori scapoli concorrenti che, essendo beni posti in asta in ambito matrimoniale, rientrano nella categoria del visto e piaciuto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano senza alcuna garanzia. Si precisa altresì che le informazioni riportate hanno carattere esclusivamente indicativo e non rappresentano certificazione. Terzo e ultimo lotto. Figlia femmina, ancora giovane, in ottimo stato di salute, aspetto gradevole, di ottima famiglia e di nobile intelletto, priva di difetti morali, vergine. Segni particolari, carattere difficile, indole inquieta, tendente all'insubordinazione con eccessi di rabbia. Terzo tentativo su base d'asta rialzata pari a 1500 ducati. Chi la vuole, signori? Forza, signori, chi se la sposa per 1500 ducati? Coraggio, signori, è ancora vergine. Nessun concorrente, niente. Agli atti, fallimento numero 787/10. Signorina, la dichiaro non sposata. Essere figlie femmine era un problema piuttosto grosso. Agli occhi dei nostri padri, eravamo una parte del loro patrimonio economico che andava in fumo al momento del matrimonio. Avere una figlia femmina equivaleva ad una perdita economica. Per questo cercavano di maritarci con la minor spesa possibile, attuando una rigida rete di strategie matrimoniali. Le figlie belle e sane erano senza dubbio economicamente le più vantaggiose. Le figlie meno appetibili o con qualche difetto fisico implicavano necessariamente esborsi più salati. Dato non trascurabile era il carattere di noi femmine. Una figlia di indole mite permetteva condizioni economiche migliori. Un carattere ribelle invece richiedeva una dote maggiore per convincere un uomo a contrarre matrimonio con lei, ma il più delle volte non si riusciva a collocarla in nessun modo. In ogni caso, il partito più prezioso per noi figlie era un parente. Sposandoci a un cugino più o meno prossimo, previa dispensa dell'autorità ecclesiastica ovviamente, nostro padre poteva ottenere il rientro della dote per noi sborsata facendo sposare nostro fratello con una femmina della stessa famiglia di nostro marito. In caso di parenti non disponibili, niente paura. Restava l'affollatissima categoria dei vedovi in cerca di nuovi menei. Grazie all'elevatissima mortalità delle donne causata dal parto, erano tanti gli uomini che da un giorno all'altro necessitavano disperatamente di un nuovo aiuto per la casa. I vedovi si accontentavano di doti molto esigue in cambio di un rapido rimpiazzo. I vedovi erano la gioia dei padri più taccagni. Certo, per quelle di noi che rientravano nella categoria degli animi indocili, la speranza di un vedovo era assolutamente fuori questione, perché loro, avendo già sperimentato cosa implica la convivenza con una donna, stavano bene attenti a chi si portavano di nuovo in casa. C'era un problema, però, che affliggeva i nostri padri. Noi donne, a differenza del loro, siamo un bene pericoloso perché facilmente deperibile. Il valore di una figlia femmina sul mercato matrimoniale può calare di molto sia invecchiando che acquisendo una cattiva fama. Un padre di famiglia doveva quindi avere molta cura di mantenere il più completo controllo su noi femmine, non solo sui nostri comportamenti, ma eziandio anche sui nostri pensieri. Un padre di famiglia doveva maritare noi figlie femmine prima che il nostro valore commerciale scendesse a causa di un'improvvisa svalutazione estetica o morale. Se però cominciavano tempi di crisi economica, non c'era più niente da fare. Il mercato matrimoniale subiva un crollo generalizzato e la continua inflazione delle doti diventava un problema per le famiglie che volevano risparmiare. E i nostri padri dovevano correre ai ripari. I nostri padri dovevano cercare soluzioni alternative alla continua inflazione delle doti. Anche se, per dirla tutta, un metodo di ascesa sociale per una fanciulla non ricca, ma dotata di fascino, c'era. Diventare cortigiana onesta. Questa era l'occasione di scalata sociale per la figlia di una famiglia sufficientemente ambiziosa e non troppo rigorosa quanto alla moralità. Avviare la figlia alla carriera di cortigiana onesta in una società in cui le donne erano escluse da ogni aspetto economico e politico della vita, la cortigiana onesta era l'unico esempio di donna indipendente a cui era concesso di investire sulla sua persona per tentare l'ascesa economica e sociale. La cortigiana onesta era una donna libera, ricercata da uomini illustri, capace di contrattare con gli uomini sul loro stesso piano. Per questo le piaceva il suo lavoro. Alla cortigiana onesta piaceva il suo lavoro, anche se viveva tremando per la fragilità del suo fascino, perché la libertà di cui godeva era una libertà condizionata. In verità era piuttosto una licenza concessa dall'uomo per la comodità maschile, una licenza che l'uomo, così come dava, poteva da un momento all'altro decidere di riprendersi. Per quanto fascinose e indipendenti, le poche fanciulle che riuscivano ad ottenere una certa sicurezza economica e un'apparenza di rispettabilità erano comunque riguardate dal mondo maschile come prostitute, obbligate a darsi in preda a tanti, a muoversi secondo l'altrui desiderio, a costringere il corpo e la mente a una tale infelice servitù troppo contraria al senso umano. Comunque sia, la condizione di cortigiana onesta era ottenibile soltanto nelle città più importanti e presso le corti dei potenti, e questo restringeva di molto la rosa delle fanciulle che potevano essere avviate dalle famiglie alla professione. Bisognava quindi che i nostri padri trovassero un'altra soluzione alla continua inflazione delle doti, una soluzione che fosse popolare e accessibile alla maggior parte delle famiglie benestanti. Si trattava di trovare per tutte noi un uomo di buona famiglia, disposto ad accogliere nella sua dimora una donna, quando anche ella fosse non bella, non giovane, non ricca, non perfetta, non vergine, addirittura ribelle. Ecco la soluzione. Era lì, comoda, elegante, estremamente vantaggiosa per tutti. Chi meglio di lui avrebbe potuto accoglierci? Noi figlie in sovrannumero con lui avremmo trovato finalmente il nostro posto nella società, dentro un monastero. Saremmo diventate tutte candide spose di Cristo. Ma come non averci pensato prima? Le doti, che pur sempre erano richieste per venire accettate in monastero come spose di Cristo, non erano neppure lontanamente paragonabili a quelle necessarie per un matrimonio. Il monastero. E fu così che un padre che avesse 4 figliole, 1 marita e 3, con 30 denari d'elemosina spirituali, cacciono negli monasteri. E la Chiesa? I padri della Chiesa? Attraverso i sacerdoti, i vescovi, i cardinali ribadirono la condanna più pesante per chi forzasse una vocazione monastica e, a garanzia della libera scelta, resero obbligatorio un accurato esame delle giovani aspiranti. In seguito, dimostrata la volontarietà della scelta, procedevano all'accettazione delle fanciulle e all'incasso delle doti spettanti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Libro primo. Era la quinta di 6 sorelle. 6 femmine in casa non erano uno scherzo. Era ancora nascosta nel ventre della madre che la sua condizione era già irrevocabilmente stabilita. Rimaneva soltanto da decidersi se sarebbe stata un monaco o una monaca, decisione per la quale faceva bisogno non il suo consenso, ma la sua presenza. Quando venne alla luce, suo padre, volendo darle un nome che risvegliasse immediatamente l'idea del chiostro, la chiamò Angela. Angela zoppicava. Fin da piccina il medico l'aveva decretata claudicante, un marchio di fabbrica ereditato dal padre, zoppo anche lui. L'essere la più fragile delle sorelle, almeno fisicamente, l'aveva resa la candidata ideale, quasi obbligata al monastero. Nessuno le disse mai direttamente «tu devi farti monaca». Era un'idea sottintesa, toccata accidentalmente in ogni discorso che riguardasse i suoi destini futuri. Qualche volta il padre, riprendendola, «Ehi, ehi», le diceva, «ricordati che tu devi essere in ogni cosa la prima del monastero». E tutte queste parole le stampavano nel cervello l'idea che doveva essere monaca, ma quelle che venivano dalla bocca del padre facevano più effetto di tutte le altre messe insieme. A 6 anni il padre decise di collocarla in monastero per l'educazione e ancor più per instradarla alla vocazione impostale. Così prese accordi con il convento delle Clarisse di Santa Chiara a Udine. E benvenute nel convento delle suore, bambine, avanti una alla volta, non spingete su, c'è posto per tutte. E via, via, via, via, via, sempre più veloci si va, è un'allegria e un divertimento. Sugli alberi crescevano confetti, frutta candita e zuccherini. Il signore sulla porta, vestito di porpora, con bastone, cappello e lustrini, sorrideva. Qui troverete ogni delizia del paradiso. Venite, bambine, venite. Negli orti dei monasteri crescono solo dolcezze e soavità. Un giocattolo, qui ci vuole un giocattolo, aveva detto suo padre. Era il suo 6° compleanno. Allora il vescovo le aveva portato una scatola. Era la prima volta che qualcuno le faceva un regalo. Era una bambola vestita da monaca. Bambole vestite da monaca furono i primi balocchi che le si diedero in mano. E in ogni cella del convento, che meraviglia, c'erano bambole, solo bambole. Era pieno di bellissime, nuovissime bambole vestite da monaca. Sono per voi, bambine, tutto per voi se resterete in questo paradiso, diceva il vescovo sulla porta. E se farai la brava un giorno potrai avere anche bambola madre badessa, la regina del convento, le aveva detto sottovoce guardandola dritta negli occhi. E lei l'aveva presa per una promessa. Tutto luccicava come i castelli delle fiabe, dappertutto oro, lustrini, profumo di ciambelle, zucchero filato. Non aveva mai visto un tale teatro di delizie e gentilezze. Vuoi tu le delizie del paradiso? Le aveva chiesto il vescovo. Vuoi tu restare qui per sempre tra le delizie del paradiso? Sì, sì, sì! E allora altro giro, altra corsa, tenetevi forte bambine, il convento delle suore vi aspetta. Alzi la mano chi vuol diventare la sposina di Cristo. Io, aveva gridato alzando la manina. E il padre, dimenticando la sua gravità consueta, andò quasi di corsa da lei. La ricolmò di lodi, di promesse, di carezze, con un giubilo cordiale, una tenerezza mai viste prima. Evviva la sposina, un applauso alla sposina, disse il vescovo. E lei, la sposina, ebbe da dire e da fare, rispondere a complimenti che le fioccavano da tutte le parti. La sposina, lei, fu l'idolo, il trastullo, ognuno la voleva per sé. L'avevano circondata di baci, confetti, carezze, le avevano messo in mano un crocifisso, avevano dato inizio alle danze. Viva la sposina, cantavano tutti in coro. Viva la castità, il convento delle suore, Angela, beata chi ci va. Angela e le altre si trovarono improvvisamente addosso un abito religioso da educanda, in mano un breviario e davanti agli occhi grate di ferro irremovibili. E tutto parve scorrere nella più quieta normalità, perché si sa, l'abitudine ci fa accettare l'inaccettabile. Accade spesso di sottometterci volontariamente a una forma di imposizione quando non abbiamo avuto la possibilità di conoscere altro. E tutta la formazione che riceviamo fin da bambine ci spinge ad accettare naturalmente un modello femminile non desiderato, perché finiamo per crederlo nostro. Angela e le altre cominciarono a trascorrere le lunghe ore delle loro giornate tra quelle mura, dedicandosi a ricami e merletti, perché l'educazione delle fanciulle si limitava all'apprendimento dei lavori femminili del filo e della conocchia. Era concesso loro di imparare soltanto i rudimenti del leggere e dello scrivere, in quanto era risaputo che l'intelletto femminile non avesse applicazione più propria che il filare. Passarono così gli anni della loro infanzia, e sarebbero forse camminate così fino alla fine, se col passare del tempo non si fossero inoltrate nell'adolescenza, quell'età così critica, nella quale par che entri nell'animo quasi una potenza misteriosa che solleva, adorna, rinvigorisce tutte le inclinazioni, tutte le idee e qualche volta le trasforma e le rivolge un corso imprevisto, imprevedibile. Angela si innamorò. Aveva 19 anni. Come le altre, da educanda era passata novizia e aveva già trascorso più di metà della sua vita dentro lo spazio circoscritto, rigorosamente delimitato e confinato del convento. Ma lui prese ad andare a visitarla ogni giorno, se la guardava la sua Angela ad ogni punto di luna, così le piaceva chiamarli, quei buchi tanto stretti della grata che perfino la voce faceva fatica a passarci. E Angela pensava che era un bene incontrarsi sempre così. Da lì non si sarebbe mai accorto che zoppicava. Presto si resero conto che nessuno protestava per quel loro continuo vedersi e parlarsi. Effettivamente in convento c'era un tale via vai di gente. Perché in convento c'era tutto quel gran via vai di gente? Ma perché tutte potevano ricevere ospiti, non solo femminili, e le conversazioni non dovevano essere né autorizzate né sorvegliate né tenute esclusivamente in parlatorio dietro le grate. La vita esterna poteva entrare nei monasteri femminili senza bisogno di strani tramiti, perché tutto era naturalmente favorito dai padri di famiglia. Era più conveniente per tutti lasciare che si allentassero gli obblighi religiosi, giusto per evitare il rischio di una seccante ribellione. Dunque, in convento si potevano accampare scuse di ogni genere per arrivare tardi alle funzioni o per andarsene prima della fine. Il controllo sulla vita quotidiana delle fanciulle non era affatto tassativo e si accettava l'uscita dal monastero anche per lunghi periodi di ferie. Così però poteva accadere che qualcuna si innamorasse. Nessun problema. In convento si tolleravano anche scappatelle di rilievo. Il frutto della colpa veniva fatto accortamente sparire dai parenti presso una famiglia lontana e la giovane rientrava in monastero dopo un lungo periodo di grave malattia. Era stato così in tutto quel via vai che Angela e le giovani novizie del Santa Chiara di Udine avevano cominciato ad essere a stretto contatto con la realtà cittadina. E siccome appartenevano per la maggior parte alle famiglie più in vista del Friuli, le ragazze scoprirono tutto quello che avveniva al di là del chiostro. In città le occupazioni si succedevano senza interruzioni, si incastravano l'una con l'altra. Ovunque si intrecciavano scambi con mercanti di Trieste, di Gorizia, dell'Istria, dell'Austria, perché tutto passava per Udine per motivi commerciali, ma poi si trasformava in un fervore culturale tale che perfino le donne, che pure erano tenute all'interno delle mura domestiche o conventuali, venivano travolte da quelle nuove temperie. Queste immagini cagionarono nel cervello delle ragazze quel movimento, quel brulichio che produrrebbe un gran paniere di fiori appena colti messo davanti a un alveare, ora che erano state stuzzicate da idee più omogenee alle loro passioni. Le giovani novizie si gettarono su quelle con un ardore vivo e spontaneo, e all'interno del monastero cominciarono a fiorire le visite e gli incontri. I libri e le lettere si moltiplicavano, passavano di mano in mano, di novizia in novizia. Ciascuna raccontava alle compagne le ultime novità che le erano capitate sotto gli occhi, e a poco quelle mura si rivelavano quanto mai aperte a quello che contemporaneamente avveniva fuori. Era stato così che Angela aveva incontrato quel giovane. Lui le raccontava dei suoi viaggi d'affari a Venezia, delle fiere d'Oltralpe, discorreva con lei di musica e commedie della moda francese, le regalava libri preziosi, le insegnava vocaboli ricercati, la travolgeva di complimenti cavati dai poemi. «I tuoi occhi sono come colombe», le diceva, «come spicchi di melagrana le tue gote, bella come la luna sei», le diceva. E Angela aveva conosciuto un non so che di nuovo, un'inquietudine diversa dalla solita, un fare di chi ha trovato qualcuno di cui prendersi cura, che vorrebbe guardare ogni momento e non lasciar vedere agli altri. Vieni fuori e sarai mia moglie, le diceva. Abbi compassione che io sto molto male e muoio per te, Angeletta. La supplicava di restare con lui, di scappare dal monastero, perché se non fosse uscita lui ne sarebbe morto di sicuro. E Angela pensava che in fin dei conti nessuno poteva metterle il velo senza il suo consenso, che anche lei poteva maritarsi, avere dei figli, godersi il mondo, che lo poteva purché l'avesse voluto, che forse lo voleva, e lo voleva infatti. Dietro questa idea però ne compariva sempre infallibilmente un'altra, che quel consenso si trattava di negarlo al padre, il quale lo teneva già per dato, e a questa idea il suo animo di figlia era ben lontano dalla sicurezza che ostentavano i suoi pensieri. «Figliola, venendo a dire al merito», disse un giorno il padre, «adesso si tratta di coronare l'opera. Tutto quello che si è fatto finora si è fatto di tuo consenso, eh? Se in questo tempo ti fosse nato qualche dubbio, qualche pentimentuccio, hai capito? Grilli di gioventù, avresti dovuto spiegarti. Ma al punto a cui sono adesso le cose, non è più tempo di far ragazzate, hai capito? Signor padre, per obbedire alle regole, per adempiere a una formalità indispensabile, pure devo dirvi che ogni volta che una figlia chiede d'essere ammessa a vestir l'abito monacale, il vescovo, quale io sono indegnamente, è obbligato ad avvertire i genitori che, se per caso forzassero la volontà della figlia, ecco, incorrerebbero nella scomunica, ma mi scuserete. Benedetto reverendo padre, lodo la vostra esattezza, è troppo giusto. Ma voi non potete dubitare. Oh, pensate, signor padre, ho parlato per obbligo preciso, del resto, sicuro, sicuro, reverendo padre. Fate pure, si porti qui la novizia. Figliola, senti in cuor tuo una libera, spontanea risoluzione di farti monaca? non sono state adoperate minacce o lusinghe, non si è fatto uso di nessuna autorità per indurti a questo. Parla senza riguardi, con sincerità, a un uomo il cui dovere è di conoscere la tua vera volontà per impedire che ti sia usata violenza in alcun modo. Parla ora o taci per sempre. Benissimo, sia fatta la volontà del Signor Padre Onnipotente. E ora che l'iter religioso proceda con inesorabile puntualità. Entrata la fanciulla nella scena del monastero, già disposti i luoghi e preparati gli abiti, si comincia a intessere i primi fili della tragedia per condurli a un miserabile fine, antecedente all'atto primo del vestire. Una musica di campane dà segno della vicina festa da celebrarsi. Terminato tutto ciò che occorre a sostituire al bianco, il nero, che all'uso delle altre donne è un lugubre contrassegno della morte dei cari mariti, colui che rappresenta il vicario del Signore, le consegna a Cristo in croce come sposo irrevocabile. Poi, ognuna delle altre monache si accinge a darle un segno di pace con un bacio. Ciascuno di quei baci, uscito da quelle bocche, degenera in uno strale che ferisce fino al profondo il cuore della fanciulla. Arrivata la tragedia a questo punto, si muta la scena prima, rappresentante il monastero, in un tempio, sopra il quale si raggira intorno la macchina tutta del funesto drammatico. Esercitan sue parti l'interesse, la frode e l'ipocrisia, che passano fra loro dialoghi non intellegibili. L'inganno e il tradimento rappresentano dal vivo l'ufficio di consiglieri, e tutti, mascherati da religiosi, recitano con grande eloquenza. Sola la virtù rimane esclusa, con fede e sincerità, e se esse tentano di comparir per rappresentare la loro parte, vengono scacciate e derise. Gli assistenti, che sono avarizia, potere e carne, applaudono di continuo e con ingordigia attendono la tradita fanciulla. Quivi, dato il segno della campanella due volte, viene introdotta la novizia, più morta che viva. La fanciulla, gettata bocconi a terra, viene coperta di nero drappo, postale ai piedi una candela e una al capo. Sopra se le cantano le litanie. Inizia così la cerimonia, che in poco nulla differisce dai funerali che ai defunti si celebrano. Ella stessa sente i suoi propri funerali, e sotto quella bara di nero velo l'accompagna con lacrime e singulti. Finita la messa, la fanciulla viene fatta sedere al posto della badessa, con la corona in testa. Allora gli scellerati, le fanfare nella chiesa di Dio, su pietra sacra, nelle mani di un sacerdote, voto solenne, giuramento inviolabile di obbedienza. Ego, soror Christi, promitto, stabilitatem meam. Ecco, il nodo così tenace e forte che non può essere disciolto da forza umana. Legame indissolubile, sepolcro di libertà per quelle che dentro vi inciampano. Inginocchiata davanti all'altare, le vengono rasati i capelli e le viene posto il velo nero in capo. Abbaccinata e confusa resta, perplessa e tradita, Così l'infelice resta gabbata. Angela e le altre furono monache per sempre, e per scherzo del destino o del vescovo emisero i voti con i nomi di Suor Mansueta, Suor Tranquilla, Suor Innocenza, Suor Teodora, Suor Immacolata, Suor Beata. Ora era fatto il loro obbligo di rispettare la clausura, la reclusione assoluta nel recinto claustrale. Sbarre di ferro alle finestre, capocchino, occhi bassi, bocca preferibilmente chiusa, bloccata ogni uscita, controllato ogni pertugio, tagliati gli alberi vicino al muro, porte e finestre sbarrate in un'ossessiva ricerca di possibili vie di penetrazione del peccato. Niente libri, niente musica, niente teatro. Ora cessano le visite, né più si vedono gli affetti. Ora non potranno più godere dell'aria, della luce, del sole, non potranno più correre e ridere. Potranno solo far stridere i denti nelle maledizioni contro i padri che cagionarono, contro i religiosi che permisero e contro tutti quelli che senza alterarsi furono presenti al loro sacrificio. L'innamorato di Angela, lui poteva evitarle il convento. Bastava andare dal padre di lei e chiedere Angela in moglie, rinunciando a una dote confacente al suo stato. Per una zoppa, nemmeno più illibata, e sparì. Fine del libro primo della Semplicità ingannata. Ti prego, liberami. Sorelle, ci risiamo. Dio, ti prego. Oh, caspiterina. Dio, ti prego, ti prego, ti prego. Oh, sorelle, non salteremo anche oggi la cena per questo, vero? Dio, coraggio. So che puoi farlo. Oh, sorelle, peggiora di giorno in giorno. Dobbiamo fare qualcosa. Dio, ho detto, liberami. Liberami. Teodora! Oh, sì, hai risposto. Teodora! Oddio, ti ringrazio. Teodora! Oh, Immacolata, sei tu. Oh, tesoro, te l'ho già detto. Lui non può farlo. Questa non è mica opera sua. Oh, ma ci deve essere una via d'uscita. La cassa da morto, questa è la via d'uscita. Teodora, nessuno ci farà uscire da qui. Nessuno, proprio nessuno. Nessuno ci farà uscire. Allora, sorelle, non ci resta altro da fare. Organizzare una rivolta. Eh? Ribellarci, esatto. Ah, hai un gran senso dell'umorismo, tesoro. No, no, Immacolata, io sto parlando sul serio. Ma noi non ci ribelliamo mai. Ci hanno insegnato che non sta bene. Oh, ma Innocenza, forse è proprio questo il problema. Teodora, da quando sei diventata badessa, sei così agitata. Oh, lo so, sarebbe stato meglio sbranarmi che tenermi chiusa in questo posto. Tesoro, rilassati. Questa è la sorte della nostra vita. È un po' storta, ma è la nostra vita. Non è così, sorelle? Oh, no, io sento che il nostro momento è arrivato. Il nostro momento? Ma che discorso è? Oh, sorelle, mettetevi comodo un momento e riflettiamo. Ma noi siamo donne. E allora? Noi non siamo fatte per riflettere. Oh, Teodora, Innocenza vuole dire che noi donne non contiamo nulla. Ah, a parte in cucina, ovviamente. Oh, ma possiamo almeno tentare. Per ribellarci, noi potremmo... io potrei... Il grande interrogativo è: che fare per ribellarci? Che fare, sorelle? Qualcuno ha qualche idea? Eh? Oh, non importa. Siamo proprio sicure di volerci imbarcare in questa faccenda? No, no, non fa niente. È proprio all'ora di cena, dico io. Oh, è tutto inutile. Resteremo chiuse qui dentro per sempre. Tesoro, ti abituerai anno dopo anno, ma non vedremo mai più il mondo di fuori. Tanto là fuori non contiamo nulla, sai che noia. Oh, morte, almeno venissi tu a liberarmi. Oh, abbi fiducia, tesoro, lei col tempo arriverà, vedrai. Un momento. Fuori da qui le donne non contano nulla. E noi siamo chiuse qui dentro. È perfetto, perfetto. Ma come mansueto perfetto? Ma certo, Teodora, non capisci? Il convento è la nostra salvezza, eh? Caspiterina, è andata in oco anche lei. Ah, l'ho sempre detto io che quelle due non erano a bolla. Sorelle, secondo me sono i digiuni, danno alla testa. Ma no, sorelle, niente digiuni. È chiaro che noi, dentro il monastero, possiamo costruire una società nuova, una società tutta al femminile. Il matriarcato, ridicolo. Perché non ci ho pensato io? Perché è un suicidio. Ma no, sorelle, niente matriarcato. È chiaro che noi possiamo fare qualcosa di più. Davvero? E questo qualcosa deve essere migliore di quello che per secoli hanno fatto gli uomini. Ah, sciocchezze. Oh, sarebbe bellissimo. Sorelle, statemi a sentire. Ultimamente i pensieri più strani affollano la nostra mente. Penso che stiamo attraversando una crisi per via dell'orologio biologico. Vedete, il nostro corpo, molto ragionevolmente, si rivolge alla mente gridando: «Ehi, io posso dare la vita! Liberami!» Davanti a questa affermazione, la nostra mente si inquieta profondamente e ci spinge a pensare pensieri nuovi, ma è tutta colpa dell'orologio biologico. Capite? No, tranquilla, Mansueta ha ragione. Noi siamo destinati a costruire un nuovo modello sociale. Oh, via, Mansueta è sempre stata una ragazzina stravagante. Ah, voi due avete un gran fegato, sorelle. Ma non credo che permetteranno tutto questo a un nugolo di suore. Un momento, ma se ci permetteranno cosa? Questo, Innocenza, fare qualcosa di meglio. Il punto è, sorelle, che dentro il convento nessuno ce lo potrà impedire. Dentro il convento noi possiamo essere libere. Ah, ma libere di fare cosa, chiuse qui dentro, Mansueta? Beh, anche questo è vero. Oh, oh, sorelle. Oh, Beata, che ti succede? Oh, oh, sento un calo di zuccheri, sorella. Oh, un gran bisogno, oh, di ribellarmi. Oh, caspiterina, non l'ho mai fatto in vita mia, davvero. Ma oggi giuro che lo faccio. E penso che mi piacerà da morire. Oh, Beata, questa sì che è una notizia. Oh, sì, ho voglia di liberarmi dalla tirannia dei nostri padri, sti disgraziati mascalzini assassoni. Tiè, Beata, oh, perdonate il mio linguaggio, ma ho voglia di fargli vedere noi come si ribella al sesso debole. Sorelle, libereremo tutte le donne dei prepotenti del mondo. E la cultura, sì, la cultura sarà la nostra arma. La cultura, ma Beata, torna sulla terra, per carità. Sorelle, dobbiamo dare addosso alla cultura e alla religione dominanti, che sono scritte dagli uomini per ingannarci. Dobbiamo riscrivere tutto, anche le regole. Tesoro, questa sì che sembra una rivolta. Oh sì, sorelle, da dentro il monastero spareremo una mitragliata di idee femminili. Beata, questa è la via. Oh, sorelle, ma non ci posso credere. Ma siete tutte andate. Oh, va bene. Se proprio dobbiamo ficcarci nei guai, possiamo, almeno per un momento, cercare di essere razionali e stabilire un piano? Giusto, sorelle, saremo la giustizia, persecutrice degli oppressori. Ma quanti digiuni ti sei fatta? Libro secondo. Un'euforia generale invade il Santa Chiara. In totale clandestinità nei muri del convento si cominciano a creare svariate aperture segrete per mettersi in contatto con l'esterno. Parenti e amici vengono subito avvertiti. Se non asseconderanno in tutto e per tutto il volere delle figlie tradite, al Santa Chiara scoppierà una sommossa. E siccome alle famiglie bastava che si salvassero le apparenze, le Clarisse trovano la strada spianata. E allora cominciano a far uscire dal convento delle vere e proprie liste della spesa di libri che i familiari avevano il compito di reperire nei più grandi centri di editoria del Nord-Est. Nel giro di pochi mesi a Santa Chiara ci sono più libri che immagini sacre e l'affare si fa subito molto serio quando le clariste diventano autentiche trafficanti di carta stampata non autorizzata. In convento comincia a circolare di tutto: la Bibbia e i Vangeli in volgare, assolutamente proibiti dalla Chiesa che li voleva mantenere in latino, mentre le clarisse rivendicavano il diritto di ognuno di leggere e interpretare i testi sacri con le proprie forze. Libri di alchimia, di cui Beata si era appassionata, ormai praticava gli esperimenti alchemici con la stessa facilità con cui prima si dedicava a quelli culinari. Innocenza e tranquilla, studiavano trattati di astrologia e si scervellavano sul sistema matematico pitagorico. Immacolata invece recitava a memoria le commedie di Plauto, interpretando da sola tutti i personaggi, e custodiva gelosamente il Decamerone del Boccaccio in edizione non purgata. Le letture di Mansueta e Teodora non si limitavano agli scritti di medicina e filosofia. Quelle due erano riuscite a procurarsi anche le opere di Paracelso sulla natura del mondo, da cui avevano dedotto l'idea di un universo infinito e increato. In città le clarisse cominciano a godere di grande rispetto per la loro notevole cultura, tanto che le famiglie più in vista del Friuli scelgono di affidare a loro l'educazione delle giovani figlie, quelle destinate a diventare spose degli uomini più facoltosi del territorio. Queste famiglie sapevano bene cosa avrebbero imparato a Santa Chiara le future madri di famiglia, un'educazione assai lontana dai principi del cattolicesimo. Ma Udine ormai era un terreno ideale per il fiorire di una cultura femminile critica e battagliera. E così, senza quasi accorgersene, quelle nuove idee di alternativa religiosa e sociale cominciano a essere sulla bocca di tutti gli abitanti della città. Poi la voce che le clarisse hanno opinioni non conformi e che la comunità ha preso a considerarle come guide comincia a spargersi anche fuori Udine, e il mormorio arriva anche all'orecchio del vicario generale, Monsignor Jacopo Maracco. Il Maracco ha sospetti più che fondati sull'eresia delle clarisse e decide di istituire un'inchiesta per riformarle. Mal gliene incolse al povero vicario quando provò a toccare il convento, perché le clarisse misero in giro il sospetto che il vicario si interessasse tanto al convento femminile per una sua ossessiva inclinazione ai peccati carnali, il che scatenò la protezione dei parenti delle monache, disposti a tutto pur di salvaguardare l'onore verginale delle figliole. I familiari mandarono proteste formali al governo cittadino, lamentando le continue incursioni del vicario in quell'oasi femminile, e ordinarono al vescovo di tagliar corto con quello spiacevole andazzo, perché se non ci pensava lui, ci avrebbero pensato loro. E il giorno successivo il Maracco ricevette l'ordine tassativo del vescovo di abbandonare Udine e di battere in ritirata, rifugiandosi a Cividale. Ma il Maracco era un uomo zelante, e non per questo si affievolì la sua volontà di riformarle. Allora le clarisse lo fronteggiarono a viso aperto, facendo giungere a Cividale un loro preciso messaggio. Sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1569, il vicario patriarcale Jacopo Maracco tornava bel bello dalla passeggiata verso la sua nuova casa di Cividale del Friuli. Diceva tranquillamente il suo uffizio, con il breviario aperto tra le mani, finché, tra un salmo e l'altro, il vicario giunse al punto dove era solito d'alzar sempre gli occhi dal libro e guardarsi dinanzi. Lì cominciava il ponte, detto del diavolo. Superstizione popolare, ovviamente, ma arrivato a quel punto il vicario patriarcale si sarebbe segnato, come era solito fare ogni volta che si accingeva ad attraversarlo, quel ponte detto del diavolo. Come al solito alzò lo sguardo, ma vide una cosa che non avrebbe voluto vedere: 6 donne stavano dirimpetto a lui all'inizio dell'altra sponda del ponte. L'abito e il portamento non lasciavano dubbi intorno alla loro condizione. A prima vista si davano a conoscere per donne della migliore società. Che le sei donne stessero lì ad aspettare qualcuno era cosa troppo evidente, ma quel che più dispiacque al Maracco fu il dover accorgersi che l'aspettato era lui. Al suo apparire all'altro capo del ponte, le donne s'erano guardate e tutte e sei d'un tratto avevano detto: «È lui!» E tutte e sei gli s'avviarono incontro. Egli, tenendosi sempre il breviario aperto dinanzi come se leggesse, spingeva lo sguardo in su per spiar le loro mosse e, vedendosele venire proprio incontro, fu assalito a un tratto da mille pensieri. Domandò in fretta se stesso, se tra le donne e lui ci fosse qualche uscita di strada, e gli sovvenne subito di no, perché quello era un ponte, il ponte del diavolo, e a destra e a sinistra c'era solo l'acqua del Natisone. Le donne si avvicinavano guardandolo fisso. Il Maracco guardò con la coda dell'occhio se qualcuno arrivasse, ma Cividale era un cimitero e non vide nessuno. Nessuno fuorché le donne. Che fare? Tornare indietro? Non era tempo. Darsela a gambe? Era lo stesso che dire inseguitemi o peggio. Non potendo schivare il pericolo di questo incontro, perché i momenti di quell'incertezza erano così penosi per lui che non desiderava altro che d'abbreviarli, affrettò il passo, recitò un versetto a voce più alta, fece ogni sforzo per preparare un sorriso. «Signor vicario!» disse una di quelle sei piantandogli gli occhi in faccia. «Voi avete intenzione di istituire un processo contro le clarisse di Udine!» «Cioè, lor signore sono donne di fede, sanno benissimo come vanno queste faccende, il povero vicario non c'entra, quelle fanno i loro pasticci tra loro, e poi, noi siamo servitori del concilio, orbene, il processo non si farà, né domani né mai, e questo non è un avvertimento, signor vicario. Le clarisse minacciano di cacciar fuoco nel monastero, minacciano uno scandalo se voi non rinunciate ad agire contro di loro. Per dindirindina, minacciare un ministro del Signore, lor signore sanno che io opero con l'aiuto di Dio, io sono costretto a far rispettare i precetti del concilio anche in quel monastero. Signor vicario, via, disse un'altra delle sei. Uomo avvertito mezzo... Ma anima mia, degnatevi di mettervi nei miei panni. Se la cosa dipendesse da me, ma la bolla papale dice: signor vicario, il processo non si farà. E qui una buona bestemmia. O chi lo farà se ne pentirà. E via, non perdiamo le buone maniere. Il signor vicario è uomo che sa il vivere del mondo e noi siamo nobildonne, non vogliamo certo fargli del male, purché abbia giudizio, si intende. Va bene, allora buonanotte, messere. E tutte e sei presero la direzione donde lui era venuto e si allontanarono. Il povero vicario rimase per un momento a bocca aperta, come incantato. Poi prese a camminare, mettendo a stento dinanzi una gamba dopo l'altra che parevano aggranchiate. Egli aveva ben compreso ormai che le clarisse potevano con un tocco di campana radunare insieme tutta la città oltre i loro parenti e non solo ritenere le sue azioni, ma anche lapidarlo. Eppure era deciso. La Chiesa non poteva lasciare impunite quelle donne che non solo non si piegavano, ma avevano osato minacciare un ministro del Signore. Bisognava raccontare tutto e subito al vescovo. «Monsignor padre vicario, pure in questo caso il vescovo, quale io sono indegnamente, è obbligato a informarvi che elle sono delle prime famiglie non solo della città di Udine ma anche della patria. Ecco, la vostra volontà di riformarle ha fatto nascere il rumore, ha dato travaglio al governo cittadino. Vedete, siamo risoluti, seduta stante, a scaricarvi dall'incarico e a privarvi definitivamente dell'ufficio di vicario. Ma mi scuserete.» Le clarisse erano giunte a defenestrare il loro avversario e ora stavano nella loro ostinazione, senza capo e senza governo, perché i confessori erano così spaventati da quell'umore riottoso che non si trovava più un sacerdote disposto a confessarle. Anche i cappuccini, perfino i gesuiti, rifiutavano il governo di quelle monache così terribili. Le clarisse, però, avevano capito i rischi che poteva comportare una loro eccessiva esposizione. E da quel momento in poi decisero di adottare una corta tattica di copertura davanti al mondo ecclesiastico. E una volta nascosto, il loro fermento venne presto dimenticato, almeno per i successivi 20 anni, cioè fino al 17 giugno 1590, quando ecco quello che accadde, qualmente riferito dai documenti ufficiali. Sorelle, tutte nel coro, presto! È l'ora del catechismo, tutte nel coro, presto! Tesoro? Sì, siamo già tutte nel coro. Oh, già, hai ragione, scusa. Tranquilla, possiamo cominciare. Bene. Sorelle, cominciamo col porci l'eterna domanda. Oh, l'eterna domanda, la so, è quella dell'uovo e della gallina. Da dove veniamo prima di nascere? La so, innocenza? Appare a prima vista evidente, innocenza, che la vita ha origine sempre dall'uovo, dall'uovo, non dirmelo! Lo sapevo, da un corpo femminile. Ah, da un corpo femminile, esatto. Allora è la gallina la risposta, non l'uovo. Sorelle, sarebbe del tutto naturale immaginare il potere di dare la vita in forma femminile. Sarebbe del tutto naturale immaginare che Dio, sorelle, tranquilla, dillo tu, che Dio, sorelle, è una donna. Caspiterina, l'avete detta grossa. Oh, sorelle, so che potrebbe sembrarvi un pochino azzardato, ma se ci... E questo cos'è? Oh, Immacolata, stiamo parlando di cose importanti. Vedete, sorelle, per secoli ci hanno insegnato a credere in un Dio maschio che partorisce la vita. Assurdo. Sembrano colpi. Tesoro, che orecchio che hai, non l'avrei mai detto che erano colpi. Ragazze, vedete, sorelle, in particolare questo dio maschio ha generato un figlio maschio anche lui. C'era il 50% di possibilità che gli venisse femmina e invece no, gli è uscito maschio. Che sia un caso. Oh, ma sorelle, sono veri, voglio dire, non saranno mica suoi effetti speciali. Ah, beata, a me pare che vengano dalla porta. Sorelle, non si può andare avanti così, però. Oh, tranquilla, per favore, vai alla porta a controllare. Va bene, ferma tutto, ferma la musica. Oh, ogni scusa è buona per saltare il catechismo. Sorelle, è l'inquisitore che sta cercando di buttare giù la porta. Ma non è il caso di avere paura, non è il caso di avere paura. Alle armi, alle armi, la guerra dei sessi! La guerra dei sessi! La guerra dei sessi è quello che vogliono. Se combattiamo contro di loro, noi finiremo sconfitte perché siamo più deboli. Caspiterina, allora questa è la fine. Sorelle, piuttosto usiamo le buone maniere, convinciamoli a far parte della nostra comunità. Vansueta, non facciamo ridere i polli. Sono secoli che hanno l'esclusiva del potere, non si lasceranno convincere proprio adesso. Sorelle, dobbiamo resistere. Ogni rivoluzione richiede i suoi sacrifici. Sacrifici? Caspiterina, mi sento svenire. Sorelle, ho un piano. Una strategia difensiva di assoluta copertura, utilizzando il trito armamentario degli stereotipi femminili. Voglio dire, gli uomini vogliono che noi donne siamo sciocche, obbedienti, ignoranti. Benissimo, tali noi diremo di essere. Autentiche, svampite, oche, oche. E no, una volta tanto che potevamo fare le rivoluzionarie. Non sono per niente d'accordo. Oh, sorelle, dobbiamo prendere una decisione. Esatto, propongo di fare una votazione. Una votazione, che eccitante. Presto, sorelle, chi vota per addomesticare gli uomini? Mansueta, qualcun altro? Teodora, chi vota per dare a Cesare quel che è di Cesare, gli stereotipi femminili? E siamo a due. Chi vota per andare alle barricate e combattere la guerra dei sessi? Uno. Astenuti? Oh, ma Innocenza, tu non hai votato! Scusate, ero così presa dall'entusiasmo. Tesoro, è chiaro, no? Rieducazione, scontro, messa in scena. Deciditi, Innocenza, non c'è più tempo. Va bene, io voto per la seconda possibilità. Eccoli che arrivano! Sì. inquisitionis, predictum procedere declaraverunt. Sorelle, io sottoscritto, eccellentissimo ac reverendissimo monsignor Francesco Barbaro, nuovo vicario generale, ho ricevuto l'ordine dalla Santa Inquisizione Romana di procedere contro di voi con decisione e assoluta segretezza, pro evitandis, in quanto fieri possit populi sussurrationibus et scandalis. Miei prodi, perquisite ogni angolo del monastero. Avanti! Improvvisamente il barbaro, seguito da un'orda di frati, fa irruzione nel monastero, ove diede principio fulmineamente, con poco ordinato rigore, a formar perquisizioni contro le monache. Eppure, al Santa Chiara non si trova granché. Le clarisse avevano avuto qualche presentimento. Il loro intuito femminile aveva suggerito di far sparire la biblioteca, nascondendo i libri dentro i materassi e i gabinetti del convento, che erano diventati autentici archivi segreti. La loro vera natura rimase sconosciuta al barbaro, che al termine della perquisizione poté soltanto mettere le mani su due manoscritti proibiti con contenuti compromettenti, lagnarsi che all'interno del monastero le immagini sacre erano pochissime e quelle poche erano pure mal ridotte, e cosa veramente grave, lagnarsi che dal coro delle monache non si riusciva a seguire la messa celebrata nella chiesa sottostante, perché di fatto le clarisse avevano gli spazi per pregare rivolti nella direzione opposta rispetto all'altare. Sebbene scarsi, questi elementi erano comunque sufficienti per far partire un processo con l'imputazione di eresia. Il barbaro però sapeva quanta influenza avevano le famiglie delle monache sul governo e sulla curia friulani, così decise di spostare il processo a Venezia, sicuro di poterlo concludere a suo favore là, con l'appoggio dell'Inquisizione e delle autorità veneziane. Così, come riportano i documenti ufficiali del governo cittadino di Udine, il barbaro fece giungere alle porte della città una squadra d'uomini armati, li quali furono tumultuariamente al monastero, e di lì vennero arrestate le monache e condotte pubblicamente in catene come fossero già colpevoli e condannate a Venezia. Tuttavia, sparsa voce che l'imputazione era di eresia e che l'ordine dell'arresto veniva da Roma, tutta la città si raccolse e fu scandalo. Il barbaro fu accusato dalla comunità di essere in collusione con la Santa Sede romana contro gli interessi del Friuli, e allora scoppiò una vera guerra d'indipendenza contro il vicario, perché a tutta Udine ormai importava di tenere alta la bandiera del Santa Chiara. In questo stato di tensione e confusione estrema si svolse il processo che ci è pervenuto. Convocato sacro tribunale, illustrissimi domini legatus, patriarca, illustrissimi e reverendissimi domini auditur, deputatus, l'accusa inizia l'interrogatorio. Sorelle, volete per caso fare qualche dichiarazione alla corte prima di cominciare l'interrogatorio? Sì, vostro onore, il nostro convento è un'oasi di cattolicesimo. Ah sì? Allora dite, reverenda madre, nel coro di un convento le suore cosa fanno? Assistono alla messa. Oh, molto bene, continua così, tesoro. Allora dite, come mai nel coro del vostro convento avete rivolto gli spazi per pregare a rovescio, verso la porta? Oh, così c'era più luce da quella parte. Perché? Abbiamo fatto male. Volete dire che per anni voi, clarisse, avete pregato con le terga all'altare e non vi è mai venuto il dubbio che la cosa non fosse regolare? Le nostre terga, ma è terribile! Oh, vostro onore, che Dio benedica il signor vicario per averci avvertite. Saremmo andate avanti così tutta la vita. E magari direte anche di non esservi mai accorte che in tutto il convento ci fossero solo due immagini sacre in croce. Oh, ma ce le hanno date così, già inchiodate. Non intendo inchiodate al muro. No, no, alla croce, quel povero figlio così malamente appeso. Ma vostro onore, questa è blasfemia. Oh sì, anche secondo noi è blasfemo lasciare quel povero figlio in croce. Poi, vostro onore, tutto quel sangue, così di cattivo gusto. Forse non vi rendete conto che voi siete accusate di eresia. Eresia? Oh, padre, perdona questo vicario che non sa quello che fa. Io so benissimo quello che faccio. Io vi sto interrogando circa la salute dell'anima vostra. Oh, la nostra anima sta meglio della vostra. Obiezione, vostro onore, la testa è in cima. Vostro onore, la testa è una donna e come tutte le donne parla vanvera. Vostro onore! Respinta! Vostro onore, in convento ho trovato due manoscritti proibiti. Chi di voi li possedeva? Forse tu? Oh no, signor vicario. Allora spostati. Forse allora tu? Ma signor vicario, no. Allora scansati. Forse allora tu? Ma signor vicario, no. Quei libri proibiti non appartengono a nessuna di noi. Vostro onore, allora dovremmo credere che siano caduti dal cielo. Beh, le vie del Signore sono infinite. Prego. Oh, no, scusate. Volevo dire, siete proprio sicuro di averli trovati in convento? Se sono sicuro. No, dico, ma ti sembro stupido? Stupido? Scusate. Obiezione, vostro onore. Qui si deride la pubblica accusa. Oh, oh no, vostro onore. Abbiate compassione. Sono in quei giorni, capite? In quei giorni? Oh, vostro onore, noi donne in quei giorni siamo emotivamente fuori controllo. Siate compassionevole. Ma vostro onore... Respinta. In 40 anni di carriera non mi è mai capitato niente di simile. Vostro onore... Che c'è? Io so a chi appartengono quei manoscritti proibiti. Benissimo. Beata, no, ci tradisci. Allarme. Finalmente si rompe l'omertà. Avanti, fuori il nome. Appartengono a... Oh, ci tradisci, Beata, tu quacque. Fuori il nome. Suor Maria Crocifissa. Maria Crocifissa. Si porti qui la peccatrice! Oh, è impossibilitato a venire. Allora andrò io! Ma è all'altro mondo! Oh, mi venisse un colpo! Vi proibisco di scaricare la colpa su persone morte! Ma vostro onore, è la verità! Bel colpo, Beata! Vostro onore, morti o non morti, quei libri proibiti erano nel convento. Chi di voi li ha letti? Chi di voi ne conosce il contenuto? Ma signor vicario, noi siamo povere donne ignoranti, sappiamo a malapena leggere e scrivere. Via tesoro, non buttarti giù, riusciamo comunque a leggere il breviario della Madonna. Ah, menzogna, vostro onore. In convento ho trovato un solo breviario della Madonna, vecchio di 15 anni ma sembra nuovo. Si vede benissimo che non lo usate, che voi l'ufficio della Madonna non lo dite. E comunque non rispettate gli ordini del concilio, per cui tutta la cristianità da 10 anni ha cambiato l'ufficio della Madonna. Noi lo diciamo non sapendo che non sia più buono. E diteci di grazia cos'è cambiato. Non sapete che il limbo è stato abolito? Il limbo? Ma roba dell'altro mondo. Ma perché? Dava fastidio a qualcuno. Diteci, che fine hanno fatto i bambini non battezzati e i profeti? Per i bambini si è già trovata un'altra collocazione. Per i profeti il Santo Padre si riserva di decidere. Ma con tutti i problemi che ha la cristianità, ma proprio di questo ci si deve occupare. Obiezione, vostro onore! Sono io che interrogo voi, non viceversa! Ma vostro no... Accolta! Vostro onore! Noi crediamo che sia da considerarsi eretico chi viene trovato in possesso di libri proibiti, anche se dice di non averli letti. Ma signor vicario, l'ignoranza non è incriminabile. E poi noi veniamo educate all'obbedienza. Se sbagliamo in qualcosa la colpa non è nostra, ma di chi non ci ha saputo ben guidare. Poi dite, signor vicario, cos'è eresia? Io non capisco questa parola. A dire il vero, io non capisco neanche cosa voglia dire essere cattolica, perché vedete, noi siamo chiusi in convento da quando eravamo bambine e per finalità economiche. Obiezione, vostro onore, questo è un malinteso. Voi siete chiusi in convento questo perché noi, per essere vostri padri spirituali, dobbiamo aver cura delle vostre anime. Oh, ma noi non vogliamo che voi ci siate padri. Basta! Se vi azzardate ancora a darmi una risposta impertinente, giuro che un pugno sul muso a tutte quante! Obiezione, vostro onore. Sì, minaccia la testa. Vostro onore, chiedo una sospensione temporanea dell'udienza. Oh, Barbaro, Francesco Barbaro, che errore da dilettanti, perdere le staffe davanti a queste donnine. Oh, coraggio, Francesco Barbaro, non è ancora finita, hai ancora un asso nella manica. Vostro onore, l'accusa inizia l'arringa finale. Voi vi domanderete come mi è saltato in testa di riaprire il processo contro queste monache. In fondo sono chiuse in convento. Ha qualcosa in mente? Non possono fare male a nessuno. Però, vostro onore, c'è il caso di quel vicario a cui hanno osato tener testa. È una trappola. Ma via, possiamo pure dimenticarcene. Era solo un caso isolato. Vostro onore, questa donnina potrebbe essere un pericolo per noi? Oh, caspiterina. Ma certo che no. E questa qui? Oh, chi? Io? Beh, ma stiamo scherzando? Ma vostro onore, tutte queste qui insieme? Sì, insieme sono pericolose. Vostro onore, queste donnine inoltre conservano in sé il potere di dare la vita. Se mai se ne dovessero rendere conto, addio alla supremazia dei padri! Per questo noi dobbiamo punirle. Qui non si tratta solo di eresia, si tratta di tenere le donne in riga. Per questo noi dobbiamo punirle. Deve essere chiaro a tutti, le idee femminili sono pericolosissime e vanno soffocate sul nascere. Oh, sorelle, finiamo tutto allo spiedo. Vostro onore, l'accusa ha terminato. La corte si ritirò per deliberare. In tribunale le due fazioni si fronteggiavano come se si stesse combattendo una vera guerra. Ora era chiaro a tutti che si stava per compiere lo scontro finale. Colpire le Clarisse significava colpire l'onore della nobiltà friulana più in vista. Le Clarisse poi non erano più le sole a pensarla in un certo modo e i loro amici arrivavano fino a Venezia e molto in alto. Ma come poteva questo incrinare il potere dell'Inquisizione romana? Ormai tutta la gerarchia ecclesiastica era stata coinvolta fino ai più alti vertici e quelli erano i tempi della Controriforma. Nessuna pietà poteva più essere mostrata verso gli eretici. In ballo c'erano le sorti del cattolicesimo. Quando arrivò la notizia che la corte aveva raggiunto il verdetto, le Clarisse videro i loro familiari tremare. I membri della corte fecero il loro ingresso con espressione solenne, inducendo tutti i contendenti a temere il peggio. Il giudice esaminò il contenuto della sentenza con encomiabile impassibilità. Non lasciò intuire minimamente la notizia che aveva sotto gli occhi. Quel verdetto, sul piano procedurale, era tecnicamente ineccepibile. Sarebbero piovute polemiche, ma lui aveva le mani legate. Il giudice ripiegò il foglio. Rimase in piedi, pronto a dare l'annuncio. Si guardò rapidamente in giro, si schiarì la gola e annunciò finalmente quanto era stato deliberato. La corte, secondo voto unanime, dichiara le imputate innocenti. Le Clarisse avevano vinto. Il loro spazio di libera contestazione era salvo. Il ritorno a Udine fu accolto da grandi feste. Tutta la comunità era venuta a salutarle. Nella sua gioia, perfino il governo cittadino di Udine volle ufficialmente celebrare il loro trionfo. Il barbaro uscì sconfitto e fu condannato a pagare le spese del processo. Passarono gli anni e a Santa Chiara, mezzo secolo dopo le prime predicazioni eretiche, ad onta di altri 4 clamorosi processi. Perdurava in quel monastero un lievito di libero pensiero, un fatto che confinava quasi con il miracolo. Quanto alla questione principale, cioè alla salvaguardia dell'ordine religioso e sociale costituito, quello dei padri, l'autorità ecclesiastica non poteva lasciare che quello scandalo durasse all'infinito. Il gioco rischiava di farsi pericoloso. Così, 60 anni più tardi, la Chiesa comprenderà come vincere la resistenza delle Clarisse e metterà fine alla loro storia. 60 anni più tardi, il monastero verrà smembrato e le Clarisse isolate, fatte trasferire in altri monasteri, lontane il più possibile dalle compagne e dalla comunità che le aveva scelte come guide. Non solo. L'autorità costituita si preoccuperà, 60 anni più tardi, di far sparire ogni documento, ogni prova di quell'esperimento di società femminile, perché nulla di quanto era accaduto venisse tramandato alle generazioni future. Così facendo, le incorreggibili monache del Santa Chiara, una alla volta, sarebbero morte, come si spengono le candele nell'uffizio della Settimana Santa. E l'obbedienza avrebbe ripreso il suo regno tra le spose di Cristo. Si udirono allora queste parole del patriarca Ludovico alle Clarisse: voi, donne e monache, come sottoposte al giogo soave e al lieve peso del Signore, siete tenute a sopportare con obbedienza l'aratro. Vi esortiamo dunque e vi ammoniamo tutte e ciascuna, in virtù della santa obbedienza, a tornare a essere docili e umili pecorelle per i vostri padri. Così cesseranno le notizie su di voi, Clarisse, e voi vi perderete nella penombra del chiostro. Ora, abbassate la testa. E di questa vicenda altro non appare.